compare Rospo di Villa Rospi. Rospo si svegliò tutto infreddolito, affamato e solo. Sospirò, si stiracchiò e poi, guardando davanti a sé, vide qualcosa muoversi verso di lui. Si allarmò, ma quando la cosa si avvicinò, la sua apprensione svanì. Era Rattino. Rospo, disse Ratto quando arrivarono alla sua casetta sulla riva del fiume, vai subito di sopra a toglierti quegli stracci di cotone. Lavati bene e mettiti uno dei miei abiti. Cerca di avere l'aspetto di un gentiluomo, se puoi. Quando Rospo scese, il pranzo era pronto e mentre mangiavano, Rospo raccontò le sue avventure. Ratto ascoltò in silenzio e alla fine disse: senti, Rospetto, non vorrei darti un altro dispiacere dopo tutto quello che hai passato, ma... Avanti, Rattino, non mi lasciare in sospeso. Che cosa c'è? Vuoi dire che non sai niente? Non sai delle donnole e delle faine che hanno occupato Villa Rospi? Rospo reclinò il muso tra le zampe e si accasciò sul tavolo. Una grossa lacrima gli scivolò sul muso, spiaccicandosi sul tavolo. Oh, forza, Rattino, mormorò Rospo. Raccontami tutto, riuscirò a sopportarlo. Beh, approfittando di una notte senza stelle, una banda di donnole armate fino ai denti ha forzato l'ingresso di Villa Rospi. Nello stesso momento una squadra di furetti occupava il cortile posteriore e la parte di servizio, mentre una compagnia di faine entrava nella sala da musica e nel biliardo, e da allora vivono tutti a Villa Rospi. Ah, è così, eh? Fremette Rospo alzandosi di colpo e afferrando un bastone. Dovranno vedersela con me. Non serve, Rospo, lo calmò Ratto. Ti caccerai nei pasticci. Ma Rospo si era già incamminato per la strada, bastone in spalla, fremente di rabbia e borbottando fra sé, finché arrivò vicino al cancello principale. Non appena fu arrivato, un lungo furetto giallo spuntò dietro di lui con un fucile. Chi va là? Ah, sciocchezze! Esclamò Rospo, irato. Che modo è questo di parlare? Vieni fuori subito, prima che io... Il furetto spianò il fucile. Rospo ebbe appena il tempo di gettarsi per terra che, pang, una pallottola fischiò sulla sua testa. Atterrito, Rospo corse a cercare rifugio da Rattino. Te l'avevo detto, no? Lo rimproverò l'amico. Hanno appostato sentinelle dovunque. Bisogna aspettare. In quel mentre qualcuno bussò forte alla porta. Era Tasso. Aveva le scarpe coperte di fango e i vestiti in disordine. Strinse la zampa di Rospo dicendogli: è davvero un triste ritorno a casa, povero Rospo. Detto questo, gli voltò la schiena e si sedette a tavola. Si sentì bussare nuovamente, questa volta era Talpone, anche lui in disordine con fili di paglia ed erba appiccicati alla pelliccia. Evviva! Benvenuto, Rospo! Che bellezza averti di nuovo fra noi! E cominciò a danzargli intorno. Ratto, Talpone e Rospo cominciarono a parlare tutti insieme, facendo un rumore assordante. State un po' tranquilli, ordinò Tasso. Immediatamente tutti si zittirono. Tasso si alzò dalla seggiola e guardandoli severamente disse: voglio rivelarvi un segreto. C'è un passaggio sotterraneo che dal fiume qui vicino a noi porta fino a Villa Rospi. Stupidaggini, lo riprese Rospo. Io conosco ogni centimetro di Villa Rospi, dentro e fuori. Non c'è nessun passaggio, te lo assicuro. Mio giovane amico, continuò Tasso con grande serietà, tu tuo padre stesso me lo ha fatto vedere e mi ha detto: non voglio che mio figlio lo sappia. È un bravo figliolo, ma non sa tenere la lingua a freno. Rivelagli la presenza del passaggio solo in caso di emergenza, non prima. Beh, replicò seccato Rospo, forse mi piace parlare un po' troppo, ma non importa, vai avanti, Tasso. In che modo potrà aiutarci questo tuo passaggio segreto? Domani sera a Villa Rospi ci sarà un grande banchetto, continuò Tasso. È il compleanno del capo delle donnole e tutti si riuniranno nella sala da pranzo a mangiare, a bere e a ridere senza sospettare di nulla. Non avranno fucili, né spade, né bastoni, niente di niente. Ma le sentinelle saranno ai loro posti, come sempre, obiettò Ratto. Certo, fece Tasso, ma noi useremo il passaggio segreto che ci porterà dritti dritti alla dispensa vicino alla sala da pranzo. Noi sgattaioleremo zitti zitti nella dispensa, gridò Talpone. Con le nostre pistole e le spade e i bastoni, esclamò Ratto, e li assaliremo, concluse Tasso. E gliele suoneremo di santa ragione, gridò eccitato Rospo mentre correva intorno alla stanza come un matto e saliva sulle seggiole. Benissimo, concluse Tasso, il nostro piano è chiaro. Ora si sta facendo tardi, andiamo tutti a letto. Domani penseremo ai dettagli. La notte seguente, ognuno dei quattro animali si armò di spada, randello e pistola. Quando furono pronti, Tasso prese una lanterna in una zampa e, brandendo un grosso bastone con l'altra, disse: ora seguitemi. Trovarono il passaggio segreto e vi si inoltrarono. Era lungo, basso e stretto. Faceva freddo ed era umido e buio. Strisciarono a tentoni con le orecchie basse e le pistole ben strette fra le zampe, finché Tasso disse: ora dovremmo essere vicini. Infatti, poco dopo udirono in lontananza voci di gente che urlava, rideva, batteva i piedi per terra e pugni sui tavoli. Il passaggio ora era in salita. Brancolarono ancora per un po' e poi udirono nuovamente il rumore, ma questa volta molto distintamente sopra le loro teste. Evviva! Evviva bene! Bravo! Si sentiva gridare. Si affrettarono lungo il corridoio fino ad arrivare ad una botola che si apriva nella dispensa. Ora, ragazzi! Esclamò Tasso. Tutti e quattro presero la rincorsa e diedero una spallata alla porta. Si ritrovarono per terra uno sull'altro nella dispensa che era separata dal salone da pranzo solo da una porta. Tasso si alzò da terra, afferrò con ambedue le zampe il randello, diede uno sguardo intorno e poi disse: l'ora è suonata! Seguitemi! E spalancò la porta. Grida e strilli echeggiarono ovunque. Inutilmente le donnole atterrite cercarono rifugio sotto i tavoli e si gettarono come impazzite contro le finestre. Inutilmente i furetti si arrampicarono su per il camino rimanendovi intrappolati. Presi dal panico, riuscirono solo a rovesciare seggiole e tavoli e a far cadere piatti e bicchieri quando i quattro eroi fecero irruzione nella stanza. Il robusto Tasso dai baffi ispidi agitava in aria il suo randello. Talpone cupo e minaccioso brandiva il suo bastone e strideva il suo grido di guerra. Ratto, con la cintola rigonfia di armi di tutte le misure e di tutti i tipi, si gettò nella mischia. E Rospo, in preda all'eccitazione, roteando il bastone sopra la testa, si diresse verso il capo delle donnole e con un solo colpo lo mandò a gambe levate sul tavolo. Sebbene fossero solo quattro, agli occhi terrorizzati delle donnole, la sala parve piena di animali mostruosi e minacciosi. Scappavano di qua e di là, con squittii di terrore e sgomento. Fuggivano dalla finestra, dal caminetto, da qualsiasi posto, pur di evitare i colpi inesorabili dei bastoni. Tutto finì in un baleno. I quattro amici corsero da una parte all'altra del salone colpendo con i bastoni qualsiasi testa osasse mostrarsi. E in 5 minuti la stanza fu sgomberata. Una dozzina di nemici giaceva sul pavimento e Talpone fu lesto a metterli tutti in manette. Tasso, appoggiato al bastone, si riposava e si asciugava il sudore della fronte. «Voglio qualcosa da mettere sotto i denti. Forza, Rospo, datti da fare!» Rospo si sentiva piuttosto offeso, poiché Tasso non lo aveva lodato per il suo coraggio, ma scacciò questo pensiero e poco dopo, insieme a Ratto, portò a tavola marmellata, zuppa inglese, un pollo freddo, prosciutto e una bella aragosta. Cenarono con gran piacere e poi se ne andarono a riposare soddisfatti e orgogliosi del loro coraggio, del piano astuto e dell'abile uso dei bastoni con cui avevano riconquistato Villa Rospi.